La storia e la memoria di Dino Pesole. 25 anni fa, il 9 novembre del 1989, la storia del Novecento cambiava verso. La caduta del muro di Berlino chiudeva di fatto il secolo breve nella celebre definizione dello storico inglese Eric Hobsbawm. Un evento di portata storica che ha ridisegnato di fatto gli equilibri geopolitici creati dopo la Seconda Guerra Mondiale, aprendo la strada alla dissoluzione dell'ex impero sovietico e alla fine del comunismo. Il 9 novembre del 1989 veniva abbattuto il simbolo della divisione del mondo in due blocchi contrapposti, disegnata dalla conferenza di Yalta, e con esso le due Germanie dell'Est e dell'Ovest tornavano a unificarsi in un'unica nazione. È il 13 agosto del 1961. Alle prime luci dell'alba, le unità armate della Germania dell'Est bloccano tutti i collegamenti tra Berlino Est e Ovest. Inizia la costruzione di un muro insuperabile che attraversa l'intera città, divide le famiglie in due, taglia le strade tra casa e posto di lavoro, scuola e università. Quella notte del 1961, la Guerra Fredda scrive una delle sue pagine più drammatiche. Una barriera di cemento lunga 106 chilometri, alta 3 metri e mezzo. 302 torrette, 14.000 sentinelle a sorvegliare, armi alla mano, che nessun cittadino dell'Est tenti la fuga verso l'Ovest. 28 anni dopo, il 9 novembre 1989, la notizia che ha cambiato il corso della storia. La caduta del muro e l'apertura del confine tra le due Germanie. Il 3 ottobre 1990, le due Germanie si unificano in un solo stato. Alcuni pezzi del muro sono diventati dei veri e propri souvenir, venduti ai turisti o ceduti attraverso aste pubbliche oppure donati a musei e gallerie di mezzo mondo. Del mondo della guerra fredda e dei nuovi assetti che si determinarono in seguito alla caduta del muro di Berlino e al crollo dell'ex Unione Sovietica, parliamo questa sera con il professor Bruno Bongiovanni, docente di storia contemporanea all'Università di Torino, autore tra gli altri del libro edito dalla Terza dal titolo Storia della guerra fredda. Buonasera professore, bentornato. Grazie, buonasera. Professore, lei scrive nel suo libro che al primo sistema, che si può definire viennese, dei primi dell'Ottocento, subentrò il sistema delle relazioni internazionali inaugurato nel 1919 con il Trattato di Versailles. E poi il terzo sistema, il terzo ordine internazionale, quello del 45, appunto, della Guerra Fredda, che crollò appunto con il dissolvimento dell'ex Unione Sovietica. Dunque è questo che determinò poi la caduta del muro, la fine di questo sistema, il terzo ordine internazionale? Sì, il terzo sistema aveva una caratteristica particolare rispetto ai primi due, vale a dire non fu l'effetto di un trattato, neanche di un trattato tra le potenze alleate, e fu invece una divisione del mondo là dove i soldati vincitori dell'Est, i sovietici, e quelli dell'Ovest, americani e inglesi, si erano fermati, e cominciò quella che mi piace definire la Pax Armata sovietico-americana dei 45 anni, più nota come Guerra Fredda, anche se il termine Guerra Fredda, come dire, è stato visto in molti modi. Nel 54 cominciò ad uscire un giornale celebre tuttora, Le Monde Diplomatique, e parlava della Guerra Fredda già al passato, come se fosse finita. Poi ritornò, poi se ne riparlò. Il bipolarismo sovietico-americano però sicuramente perdurò, con momenti di coesistenza pacifica, di confronti, di guerre interposte, soprattutto in Asia, Corea e soprattutto Vietnam successivamente. In effetti, professore, ci sono state varie fasi della guerra fredda, quindi è giusto dividerlo magari anche in periodi. Sì, c'è una guerra fredda di posizione che va dal 47 col piano Marshall e con la politica del containment e arriva fino al 53 con la fine della guerra di Corea, e poi c'è una guerra fredda di movimento con la decolonizzazione crescente e con un mondo in cui si può rilevare che il bipolarismo sovietico-americano fu sempre largamente imperfetto e sicuramente incompiuto. I paesi non allineati forse avevano la maggioranza della popolazione nel mondo, e la parola terzo mondo, che noi oggi un po' erroneamente rispetto alle origini usiamo come simbolo di povertà, di via di sviluppo, nacque nel 52 su iniziativa di un demografo e sociologo francese, Sauvy, che lo prese dal terzo stato, addirittura dal tempo della rivoluzione francese, e tiers monde voleva dire quella parte del mondo che non stava né con l'egemonismo statunitense né con l'egemonismo o imperialismo sovietico. Professore, si dice, forse con un po' di esagerazione, che alla fine l'equilibrio che si determinò tra i due blocchi contrapposti durante la guerra fredda era pur sempre un equilibrio che per fortuna non sfociò in nuove guerre mondiali. E quello successivo alla caduta del muro e alla dissoluzione dell'Unione Sovietica, che equilibrio è? È un equilibrio difficile da definire. Un grande studioso americano, Huntington, morto qualche anno fa, ha parlato di clash of civilizations, di scontro di civiltà, quando la parola civiltà sembrava appartenere al passato, è ritornata, mentre sembrava che tutto il Novecento fosse dominato da scontri ideologici, da sistemi politici contrapposti, prima i Mittelmacht, le potenze centrali nella prima guerra mondiale, poi l'avvento dei fascismi, poi il comunismo che si stalinizza progressivamente, eccetera, eccetera. Mentre l'equilibrio successivo, pur parlandosi di equilibrio del terrore fondato sulla paura della bomba atomica, ricordo la geniale espressione del 62 di Raymond Aron, che disse: la pace è impossibile, quindi la guerra è improbabile. Lo trovo straordinario ancora oggi questa definizione per comprendere il periodo, anche se guerre, come dire, non proprio marginali ci sono state, ma mai le due superpotenze si sono scontrate direttamente. Il momento in cui il mondo ha avuto più paura è stata la crisi di Cuba, i 13 days del 62, i 13 giorni, gli americani li chiamano ancora così, in cui la flotta sovietica con i missili che doveva portare a Cuba fronteggiò la flotta americana e poi fece marcia indietro, fortunatamente, ma fu quello forse il periodo in cui si ebbe più paura di uno scontro diretto, più che durante la guerra di Corea, più che durante la guerra nel Vietnam, che pure furono denunciate, furono come dire, criticate come il ritorno al conflitto armato, ma tuttavia l'unico momento in cui si trovarono di fronte fu quello dell'autunno del 62, due grandi superpotenze. E in effetti, professore, lì si rischiò veramente l'esplodere il nuovo conflitto mondiale. Ci dica cosa rappresenta la caduta del muro nell'immaginario collettivo di noi europei, forse va anche al di là della sua portata storica. Sì, fu quasi la conclusione, poi ci fu la Romania che fu l'unico momento veramente sanguinario. Tutto l'anno fu caratterizzato dalla caduta dei comunismi. La Polonia, che veniva da un decennio dell'esperienza del Solidarnosc, aveva cominciata per prima, con anche i moti che si erano verificati a Danzica, a Stettino, e poi anche l'Ungheria e altri paesi. Ma certo il simbolo che rappresentava il muro di Berlino, che aveva in qualche modo impressionato tutto il mondo, tanto che però quando arrivò Kennedy davanti a Berlino, davanti al muro di Berlino per fare il suo famoso discorso, quasi tutto in inglese, però a un certo punto si fermò, sì, e disse una frase che commosse tutti i tedeschi, che era "Ja, ich bin ein Berliner", sì, anch'io sono un berlinese. E molti tedeschi capirono che in quel momento era finita la seconda guerra mondiale, vale a dire che gli Stati Uniti non erano più gli occupanti della Germania federale, ma erano ormai una potenza alleata. E di lì però cominciò la divisione che il 9 novembre dell'89 venne meno, con quella che si chiama comunemente la caduta del muro di Berlino, ma sarebbe più giusto definirla l'abbattimento del muro di Berlino, un abbattimento, certo, pacifico, che non fu ostacolato dai FOPOS, dalla Volkspolizei di Berlino Est, ma come dire, fu un abbattimento che durò giorni e giorni, a cui parteciparono giovani e meno giovani dell'Est e dell'Ovest. Sì. Però concluse un anno in cui i comunismi dell'Europa orientale vennero meno, solo che per gli europei Berlino è una delle grandi capitali del mondo, divenne capitale della Germania nel 2000, e il fatto stesso che i tedeschi avessero dato la capitale a Bonn, cioè una cittadina piccola relativamente, voleva dire che era una capitale transitoria per i tedeschi dell'Ovest. Aspettavano ancora una riunificazione e che la capitale della Germania andasse nella città principale di tutto il mondo tedesco. Esatto, che era Berlino. Grazie professore, la ringraziamo molto per questi suoi chiarimenti e le auguriamo buona serata. Buona serata anche a voi e grazie anche a voi.